Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Il giorno dopo e i seguenti insistetti nelle telefonate, non riuscendo però a parlare a Nicole, che assai di rado. All'apparecchio veniva quasi sempre qualcun altro, o Alberto, o il professor Ermanno, o la Dirce, o anche Perotti, i quali, ad eccezione della sola Dirce, breve e passiva come una centralinista, e imbarazzante e raggelante proprio per questo, mi invischiavano tutti in lunghe, inutili conversazioni. A un certo punto Perotti lo interrompevo, è vero. Con Alberto e col professore, comunque, la cosa mi tornava assai meno facile. Li lasciavo parlare. Speravo sempre che fossero loro a nominare Nicole. Invano. Come se si fossero proposti ambedue di evitarlo, e anzi ne avessero discorso tra loro, padre e fratello abbandonavano esclusivamente a me ogni iniziativa al riguardo. Il risultato era che molto spesso riattaccavo il ricevitore senza aver trovato la forza di chiedere che mi mettessero in comunicazione. Ripresi allora le visite, sia di mattina con la scusa della tesi, sia al pomeriggio andando a trovare Alberto. Non facevo mai nulla per segnalare a Nicole che ero in casa. Ero sicuro che lo sapesse e che un giorno o l'altro si sarebbe mostrata lei spontaneamente. La tesi, in realtà, sebbene l'avessi finita, mi restava ancora da ricopiarla. M'ero perciò portato da casa la macchina da scrivere, il cui ticchettio, non appena ruppe per la prima volta il silenzio del salone del biliardo, ebbe il potere di richiamare immediatamente sulla soglia del suo studio il professor Ermanno. «Cosa combini? Stai già ricopiando?» gridò allegramente. Mi raggiunse e volle vedere la macchina. Era una portatile italiana, una Littoria, che mio padre mi aveva regalato qualche anno prima, quando avevo superato l'esame di maturità. Il nome della marca non provocò affatto il suo sorriso, come avevo temuto. Parve anzi compiacersi, constatando che anche in Italia si producessero ormai delle macchine da scrivere che, come la mia, avevano tutta l'aria di funzionare perfettamente. Loro in casa ne possedevano tre, disse. Una per Alberto, una per Nicole e una per lui, tutte e tre americane, marca Underwood. Quelle dei ragazzi erano delle portatili, molto robuste, senza dubbio, ma non certo così leggere come questa. Intanto la soppesava, tenendola dal manico. La sua, invece, era di tipo normale, da ufficio, diciamo. Forse ingombrante e antiquata, però solida, veramente comoda. Lo sapevo quante copie permetteva di tirare, volendo, fino a 7. Mi condusse nello studio e me la mostrò, sollevando un lugubre cofano metallico verniciato di nero che prima d'allora non avevo mai notato. Si trattava di un vero e proprio pezzo da museo, evidentemente pochissimo adoperato anche da nuovo, e durai fatica a convincere il professore che no, anche se con la mia Littoria non sarei riuscito a tirare più di 3 copie, 2 delle quali in velina, preferivo continuare con quella. Capitolo dopo capitolo battevo sui tasti, ma la mente era altrove. E mi sfuggiva altrove anche quando, al pomeriggio, mi ritrovavo giù, nello studio di Alberto. Malnate era tornato da Milano una settimana abbondante dopo Pasqua, pieno di indignazione per i recenti avvenimenti politici. La caduta di Madrid. Ah, ma non era finita. La conquista dell'Albania. Che vergogna. Che pagliacciata. Parlava, al solito rivolgendosi in prevalenza a me, ma mi sembrava un po' meno didattico e perentorio dei mesi scorsi, come se dalla sua corsa a Milano a vedere famiglia e amici avesse attinto una nuova disposizione all'indulgenza nei confronti degli altri e delle loro opinioni. Con Nicole, l'ho già detto, non avevo che rari contatti e soltanto telefonici, durante i quali evitavamo entrambi di accennare a cose intime. Tuttavia, alcuni giorni dopo che l'avevo attesa per oltre un'ora all'uscita del tempio, non seppi resistere alla tentazione di lagnarmi con lei della sua freddezza. «Sai», dissi, «la seconda sera di Pasqua ti ho poi vista». «Ah sì? Eri al tempio anche tu?» «No, non c'ero. Passavo da via Mazzini. Ho notato la vostra macchina, ma ho preferito aspettarti fuori». «Che idea! Eri molto elegante. Vuoi che ti dica come eri vestita? Ti credo sulla parola. Dove eri? Sul marciapiede di fronte, all'angolo di via Vittoria. A un certo punto ti sei messa a guardare verso di me. Di la verità, mi hai riconosciuto? No, perché dovrei dirti una cosa per un'altra. Ma tu, piuttosto, non capisco per quale ragione... Non potevi avanzare il piede, scusa? Stavo, poi, quando mi sono reso conto che non eri sola, ho lasciato perdere. Bella scoperta che non ero sola. Però sei uno strano tipo. Potevi venire a salutarmi lo stesso, trovo. Certo, sì, ragionando. Il male è che non sempre uno riesce a ragionare. E poi, ti avrebbe fatto piacere? Dio mio, quante storie, sospirò. La seconda volta che mi riuscii di parlarle, non meno di una dozzina di giorni più tardi, mi disse che era malata, con addosso un potente raffreddore e qualche linea di febbre. Che noia! Perché non andavo mai a trovarla? L'avevo proprio dimenticata. Sei a letto? Balbettai sconcertato, sentendomi vittima di un'ingiustizia enorme. Sicuro che lo sono, e per giunta sotto le lenzuola. Sta a vedere che ti rifiuti di venire per paura dell'influenza. No, no, Nicole, risposi amaramente, non farmi più codardo di quello che sono. Ero soltanto meravigliato che tu mi accusassi di averti dimenticata, quando invece, non so se ti ricordi, seguitai con la voce che mi si velava, ma prima che tu partissi per Venezia, telefonarti era facilissimo, mentre adesso, devi ammetterlo, è diventata una specie d'impresa. Lo sai che sono venuto diverse volte a casa tua in questi giorni? Te l'hanno detto? Sì? E allora? Se volevi vedermi, sapevi benissimo dove trovarmi. La mattina nella sala del biliardo e il pomeriggio giù da tuo fratello. La verità è che non ne avevi nessuna voglia. Che stupidaggini! Da Alberto non mi è mai piaciuto andarci, specie poi quando riceve degli amici. Quanto a venire a trovarti la mattina, non stai lavorando. Se c'è una cosa che detesto, è proprio quella di disturbare la gente quando è lì che lavora. Ad ogni modo, se davvero ci tieni, domani o dopodomani, passerò un attimo a salutarti. L'indomani mattina non venne, ma il pomeriggio, mentre ero da Alberto, saranno state le 7, Malnate si era accomiatato bruscamente da qualche minuto, entrò Perotti. La signorina mi pregava di salire di sopra un momento, annunciò impassibile, ma mi parve di malumore. Si scusava, era ancora a letto, altrimenti sarebbe scesa giù lei. Che cosa preferivo, andar su subito oppure restare a cena e salire dopo? La signorina, lei, avrebbe preferito subito, dato che aveva un po' di mal di testa e voleva spegnere la luce molto presto. Però, se invece io decidevo di rimanere... No, per carità, dissi guardando Alberto, vengo immediatamente. Mi alzai, disponendomi a seguire Perotti. Non fare complimenti, mi raccomando, diceva intanto Alberto, accompagnandomi premurosamente verso la porta. Credo che a tavola, questa sera, saremo io e il papà soli. La nonna è anche lei a letto con l'influenza e la mamma non vuol saperne di allontanarsi dalla sua camera nemmeno un minuto. Dunque, se ti va di prendere un boccone con noi e di andar su da Nicole dopo, sai come il papà ti vede volentieri. Declinai l'invito, accampando un inesistente impegno per la serata, e corsi dietro a Perotti, che aveva già raggiunto il fondo del corridoio. Senza scambiare una parola, giungemmo in breve ai piedi della lunga scala elicoidale che portava su fino alla base della torretta lucernario. L'appartamentino di Nicole, lo sapevo, era il più alto della casa, solamente mezza rampa al di sotto dell'ultimo pianerottolo. Non mi ero accorto dell'ascensore e mi avviai a salire a piedi. «Va ben che lei è giovane», sogghignò Perotti, «però 123 gradini sono tanti. Non vuole che prendiamo l'ascensore? Funziona, sa». Aprì senz'altro il cancello della nera gabbia esterna, quindi la porta scorrevole della cabina, e si tirò da parte per lasciarmi passare. Varcare la soglia della cabina, che era un antidiluviano scatolone tutto luci di legni e color vino, scintillanti lastre di cristallo adorne di una M, di una F e di una C elaboratamente intrecciate, esser preso alla gola dall'odore pungente, un po' soffocante, tra di muffa ed acquaragia, che impregnava l'aria racchiusa in quel breve spazio, e avvertire d'un tratto un immotivato senso di calma, di tranquillità fatalistica, di distacco addirittura ironico, fu una cosa sola. Dove avevo sentito un odore simile? Mi chiedevo. Quando? La cabina cominciò a sollevarsi adagio su per la tromba delle scale. Fiutavo l'aria e intanto guardavo dinanzi a me la schiena rivestita di rigatino di Perotti. Il vecchio aveva lasciato a mia completa disposizione il sedile coperto di soffice velluto. In piedi, a due palmi di distanza, assorto, teso, una mano afferrata alla maniglia d'ottone della porta scorrevole e l'altra appoggiata con atto possessivo, a suo modo tenero, alla bottoniera dei comandi, ugualmente fulgida di ben lustrati ottoni, Perotti era tornato a chiudersi in un silenzio gravido di tutti i significati possibili. Ma fu qui che ricordai e compresi. Perotti taceva non già perché disapprovasse, come a un certo punto m'era passato per la testa che Micol mi ricevesse in camera sua, bensì perché l'opportunità che gli si offriva di manovrare l'ascensore, un'opportunità forse rara, lo colmava di una soddisfazione tanto più intensa quanto più intima, più segreta. L'ascensore non gli era meno caro della carrozza giù in rimessa. Su queste cose, su queste venerande testimonianze di un passato ormai anche suo, egli sfogava il suo combattuto amore per la famiglia che serviva da quando era ragazzo, la sua rabbiosa fedeltà da vecchio animale domestico. «Va su bene», esclamai. «Di che marca è?» «È americano», rispose, volgendo il viso a metà e storcendo la bocca nella curiosa smorfia di disprezzo dietro la quale i contadini mascherano spesso l'ammirazione. «Elga più di 40 anni, ma tirerebbe ancora su un reggimento». «Sarà un Westinghouse», azzardai a caso. «Mo, sogiomì», borbottò, «uno di quei nomi là». Di qui partì per raccontarmi come e quando l'impianto fosse stato messo su, se non che la cabina, fermandosi di botto, lo costrinse con evidente dispiacere a interrompersi quasi subito. Nello stato d'animo in cui mi trovavo in quel momento, di provvisoria serenità senza illusioni, l'accoglienza di Micol mi sorprese come un dono imprevisto, immeritato. Avevo temuto che mi trattasse male, con la stessa crudele indifferenza degli ultimi tempi. Mi bastò entrare nella sua stanza, invece, dopo avermi introdotto, Perotti aveva richiuso discretamente la porta dietro le mie spalle, per vedere subito che mi sorrideva benigna, gentile, amica. Ancor più dell'esplicito invito a venire avanti fu quel suo sorriso luminoso, pieno di tenerezza e di perdono, che mi persuase a staccarmi dal fondo buio della stanza e ad avvicinarmi. Mi accostai dunque al letto, dalla parte dei piedi, restando lì, con le mani appoggiate alla ringhiera. Benché infilata sotto le coperte, Micol ne rimaneva fuori con tutto il busto. Indossava un pullover verde scuro, accollato e dalle maniche lunghe, la medaglietta d'oro dello Shaddai scintillante sopra la lana della maglia e due guanciali a sostegno della schiena. Quando ero entrato, stava leggendo un romanzo francese, come notai, riconoscendo di lontano il tipo della copertina bianca e rossa, ed era stata la lettura, probabilmente, più che il raffreddore, a metterle sotto gli occhi un segno di stanchezza. No, era sempre bella, mi dicevo contemplandola. Forse non era mai stata così bella e attraente. Di fianco al letto, all'altezza del capezzale, c'era un carrello di legno di noce a due ripiani, quello superiore occupato da una lampada snodabile accesa, dal telefono, da una teiera di coccio rosso, da due tazze di porcellana bianca con l'orlo dorato e da un termos di alpacca. Micol si allungò per posare il libro sul ripiano inferiore, quindi si girò alla ricerca della peretta della luce elettrica pendente dal lato opposto della testiera. «Povera anima», diceva intanto fra i denti, «non era proprio il caso che mi tenesse in un mortorio simile». E l'aumento della luce, non appena conseguito, venne da lei salutato con un grosso «ah» di soddisfazione. Continuò poi a parlare, più che mai finzicontinico, dello squallido raffreddore che la costringeva a letto da ben 4 giorni, delle pastiglie di aspirina con le quali, di nascosto dal papà, non meno dello zio Giulio, acerrimo nemico dei sudoranti, danneggiavano il cuore a sentir loro, ma non era vero niente. Aveva invano tentato di affrettare la risoluzione del malanno, della noia, delle interminabili ore di degenza, senza voglia di fare un accidente, neanche di leggere. Leggere. Una volta, all'epoca delle famose influenze con febbre da cavallo dei suoi 13 anni, lei era capacissima di divorare in pochi giorni tutto Guerra e Pace, per esempio, o l'intero ciclo dei Tre Moschettieri. Mentre adesso, durante il corso di un miserabile raffreddore, sia pure di testa, sì e no che le riuscisse di far fuori qualche romanzetto francese, di quelli stampati radi radi. «Conoscevo Les Enfants Terribles di Cocteau?» chiese riprendendo il libro dal carrello e poi porgendomelo. Non era male, era divertente e chic. Ma volevo mettere i Tre Moschettieri, 20 anni dopo, e il Visconte di Bragelonne? Quelli sì che erano romanzi. Parliamoci chiaro, dopotutto, anche dal lato sciccheria funzionavano moltissimo meglio. D'un tratto si interruppe. «Beh, perché resti lì impalato?» esclamò. «Santo Dio benedetto, sei proprio peggio di un bambino piccolo. Prendi quella poltroncina là», intanto me la indicava, «e vieni a sederti qui vicino». Mi affrettai ad obbedire, ma non bastava. Adesso dovevo bere qualcosa. «Che cosa posso offrirti?» diceva Nicole. «Vuoi del tè?» «No, grazie», risposi. «Prima di cena non mi va. Sciacqua lo stomaco e mi fa andar via l'appetito. Forse un po' di Schiwasser?» «Idem come sopra. È bollente, sai. Se non sbaglio, tu ne hai assaggiato solamente la versione estiva, quella ghiacciata, in fondo eretica. L'Inverwasser?» «No, no, grazie». «Dio mio», piagnucolò. «Vuoi che suoni il campanello e ti faccia portare un aperitivo? Noi non ne prendiamo mai, ma credo che in casa ci sia da qualche parte una bottiglia di bitter Campari. Perotti, ogni sua, sa certamente dove trovarla». Scossi il capo. «Non vuoi proprio niente», esclamò delusa. «Che razza di tipo!» «Preferisco di no». Dissi, «preferisco di no», e lei scoppiò in una gran risata. «Perché ridi?» domandai un po' offeso. Mi osservava come se ravvisasse le mie vere fattezze per la prima volta. «Hai detto preferisco di no come Bartleby, con la stessa faccia». «Bartleby? E chi sarebbe questo signore?» «Sta a vedere che non hai letto i racconti di Melville». «Di Melville», dissi, «conoscevo soltanto Moby Dick, tradotto da Cesare Pavese». Allora lei volle che mi alzassi, andassi a prendere dalla scansia lì di fronte, quella tra le due finestre, il volume dei Piazza Tales e glielo portassi. Mentre cercavo fra i libri, veniva raccontandomi la trama del racconto. Bartleby era uno scrivano, diceva, uno scrivano assunto da un noto avvocato di New York, un ottimo professionista quest'ultimo, attivo, capace, liberale, uno di quegli americani dell'Ottocento nei cui panni Spencer Tracy sta tanto bene, perché gli ricopiasse pratiche d'ufficio, comparse conclusionali e così via. Ora lui, Bartleby, finché lo mettevano a scrivere, ci dava dentro a sgobbare coscienziosamente. Ma se a Spencer Tracy veniva in mente di affidargli qualche lavoretto supplementare, come quello di collazionare una copia sul testo originale o di fare un salto dal tabaccaio all'angolo della strada per comprare un francobollo, lui niente. Si limitava a sorridere evasivamente e a rispondere con educata fermezza «I prefer not to», appunto. «E per quale motivo, poi?» chiesi tornando col libro in mano. «Perché non gli andava di far altro che lo scrivano. Lo scrivano e basta». «Ma scusa», obiettai, «immagino che Spencer Tracy gli passasse un regolare stipendio». «Certo», rispose Nicole, «però cosa significa? Lo stipendio paga il lavoro, ma non la persona che lo compie». «Non capisco mica tanto», insistetti. «Spencer Tracy aveva preso Bartleby nello studio come copista, è vero, ma anche, suppongo, perché aiutasse a mandare avanti la baracca in genere. Che cosa gli chiedeva, in fondo? Un di più che magari era un di meno. Per uno obbligato a star sempre seduto, il salto dal tabaccaio all'angolo della strada può rappresentare l'utile distrazione, la pausa necessaria. In ogni caso, una magnifica occasione per sgranchire un po' le gambe». «No, mi dispiace. Secondo me, Spencer Tracy aveva tutte le ragioni di pretendere che il tuo Bartleby non stesse lì a far tanto la pittima ed eseguisse ciò che gli si richiedeva». Discutemmo abbastanza a lungo sul povero Bartleby e su Spencer Tracy. Lei mi rimproverava di non capire, di essere un banale, il solito inveterato conformista. Conformista? Seguitava a scherzare. Sta il fatto però che prima, con aria di commiserazione, mi aveva paragonato a Bartleby. Adesso, al contrario, vedendo che stavo dalla parte degli abbietti datori di lavoro, si era messa a esaltare in Bartleby l'inalienabile diritto di ogni essere umano alla non collaborazione, cioè alla libertà. Continuava, sì, a criticarmi, insomma, ma per motivi del tutto opposti. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.